gomito sinistro, viva il ballo dell'estate. Un giorno ero al lago, stavo facendo windsurf, c'era un sacco di acqua nel lago come immaginavo, ma a un tratto dopo circa 47 metri ecco che l'acqua del lago si interrompe bruscamente, cado dentro una cosa che si innamora di me. Ora insieme balliamo il ballo dell'estate, metti la sabbia in bocca e fai un castello con il palato, gioca a bocce usando le bombe a mano, ecco il ballo dell'estate. Un giorno ero celebre, stavo prendendo il sole, essere molto lontano è difficile da prendere, così rimpiegai su un raggiungibile puma, ma imparano ad apprezzarmi la mia amicizia, e poi mangiai un bel panino insieme alla Yeti, che la felicità faceva il ballo dell'estate. Fai il gesto del vento.